Radio 24 Reportage. Oman, la porta del contrabbando, di Angelo Miotto e Cristian Elia. Una delle poche cose che c'erano a Dubai prima di tutto quello che esiste adesso è il creek, o khor, come lo chiamano gli arabi. Un canale, scavato nel deserto, che entra in città per dar vita a un porto sicuro. Un approdo per tutte le barche sin dal 1894, quando lo sceicco Maktoum fece di Dubai un porto franco. Illuminazione che ha cambiato la vita a questo borgo di pescatori di perle, prima della scoperta del petrolio. Ancorate lungo le sponde del creek, attraversato senza posa dai dhow e dagli abra, imbarcazioni tradizionali dove la vela è stata sostituita dai motori che ronzano senza posa, ci sono delle imbarcazioni di legno che catturano l'attenzione. La poppa e la prua arcuate verso l'alto, lo scafo dipinto di colori sgargianti, la tolda carica da far paura di ogni genere di merce. Si chiamano gask. Siamo centinaia e tutti impegnati nella stessa rotta. Da Dubai fino all'Iran, neanche 3 ore. Portiamo di tutto. Gli equipaggi sono tutti iraniani, come me. Reza ha un viso che sembra una mappa geografica, come se per ogni viaggio completato, sempre sulla stessa rotta, avesse inciso una tacca sulla fronte o attorno agli occhi e alla bocca. Ho cominciato che ero ancora un ragazzo, non mi ricordo neanche più quando. Io sono di Larak, una piccola isola. Tutti quelli che ricordo della mia famiglia facevano quello che faccio io. Vedi quel ragazzone che stiva la merce sulla mia barca? È mio figlio Ali. Quando mi stancherò di fare avanti e indietro, la barca la prenderà lui. D'altronde accade da sempre. Il quartiere più antico di Dubai si chiama Bastakia, in onore di Bastak, una città iraniana dalla quale venivano tutti i commercianti che hanno costruito casa qui, con le nostre tipiche torri del vento, che ti tengono al fresco d'estate e al caldo d'inverno. Noi portiamo tutta roba legale, ma questa è ormai l'unica porta di accesso all'Iran. Con tutti gli altri vicini abbiamo dei problemi. Le strade attorno al creek pullulano di persone che passano a rotta di collo tra la gente, spingendo carrelli carichi di merci in equilibrio precario. Sullo sfondo del canale la grande sede della Bank Melli Iran, la cassaforte degli Ayatollah, colpita dall'embargo USA e dall'Unione Europea. Embargo che non colpisce solo istituti finanziari, ma anche e soprattutto merci. Tutte quelle che possono essere ritenute in qualche modo legate al dossier nucleare iraniano. Merci che però entrano lo stesso in Iran, attraverso la porta della penisola di Musandam, un pezzo di Oman incastonato negli Emirati Arabi Uniti, dalle cui coste l'Iran dista più o meno 100 km. Questa è una terra povera, montagna e mare, ma poco da mettere sotto i denti. La gente ha cominciato a fare il pirata nella notte dei tempi, ma poi non rendeva più. Prima gli inglesi, per arrivare ai giorni nostri, dove lo stretto sembra sempre una parata militare. Navi da guerra americane e iraniane si sfiorano, come i muli selvatici quando stanno per litigare. Sniper. Khalid è un uomo di un'età indefinita, un copricapo bianco e nero, un paio di pantaloni corti che sottolineano le gambe curve ma massicce, come olivi ben piantati sulla sua barca. Il porticciolo di Al-Kasab, centro più grande di Musandam, pullula di turisti pronti alla gita in battello. Questa zona è nota per i fiordi d'Arabia, meravigliose insenature nelle quali le alture della penisola sprofondano nel mare blu. No problem, picture for you. No problem. Io voglio dire. La vita qui funziona così. O porti i turisti a vedere i delfini, oppure fai il contrabbandiere. Io i turisti li odio, quindi noi carichiamo tutto quello che possiamo sulle nostre barche. Appena il sole cala, via a tutta forza verso l'Iran. Sbarchiamo su una delle 1000 isolette iraniane, alcune delle quali sono porti franchi. La polizia iraniana sa e si volta dall'altra parte, dalle sigarette americane fino ai componenti elettronici e meccanici. No, 20 here. 20 day here. 20 day here. 30 day Iran. Come by the way. Khalid fa spazio. Tra poco si parte. Il fondo del golfo è basso. La barca di Khalid ha il fondo piatto in vetro resina. La partenza sembra quella di una gara di offshore. Il rombo del motore è assordante, le botte dello scafo sulle onde fanno temere un naufragio da un momento all'altro. Prima sosta, il villaggio di Kumsar. Si carica altra merce. Il posto è raggiungibile solo via mare. Andiamo. In Iran ci aspettano. Qui non c'è nulla da vedere, solo migliaia di capre. Per anni gli iraniani erano così poveri che pagavano in natura, dando le capre per la merce. In tutto questo tempo le capre hanno continuato a riprodursi. Ora sono dappertutto. Anche loro sono la storia di questo luogo. Nel contrabbando non ci vedo niente di male. Tutti ce l'hanno con l'Iran. Ma che c'entra la gente con il governo? Alla fine le centrali nucleari ci sono, le armi pure, ma magari non fanno passare un pezzo di ricambio per un camion che blocca l'unica fonte di guadagno per un poveraccio che vuole solo sfamare i suoi figli. عسى ما يوحشك غالي تطمن يا هوا بالي انا في غربتي صابر مخلي بالي من حالي عسى ما يوحشك غالي تطمن يا هوا بالي انا في غربتي صابر مخلي بالي من حالي Lungo la strada un'altra barca affianca quella di Khalid. Saluti e grida come due amici che si incontrano in auto. Un sorriso d'intesa, uno scambio di gesti e comincia una folle gara di velocità. Lungo la costa, su pendii mozzafiato, le capre brucano quel che c'è, guardando indifferenti tutto quello che le circonda. La polizia lo lascia in pace, da una parte e dall'altra. A tutti fa comodo il suo traffico. Lo stesso fanno le unità militari, impegnate a digrignare i denti l'una di fronte all'altra per preoccuparsi di Khalid, che sfreccia come un pilota di Formula 1 nel mare. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.